Cristian. Come hai visto Pardo nella corsetta di prima? Com'è, in forma? È un po' appesantito, però ho visto bene, dai. Ma sto a dieta, ma... sta a dieta, sta a dieta. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Ma stai ancora a dieta? Mediamente, ho sentito nell'incipit del nostro programma. Sì, ma mediamente. Sto a dieta, fra un pasto e l'altro sto sempre a dieta. Ah, bravissimo. Il problema sono i pasti. Bravo. Il problema sarà che questo weekend alle porte per molte squadre con problemi di jet lag, le grandi assenze, comprese quelle del pubblico dell'Olimpico. Anzi, vorrei chiedere, chiediamo insieme ai tifosi di Roma e Lazio 800240024 perché disertano il derby, perché non è spiegabile, poi ne parliamo con calma, abbiamo anche ospiti in scaletta, non è spiegabile con i risultati sportivi, no Pierluigi? Beh no, diciamo i risultati sportivi soprattutto nel caso della Lazio non hanno aiutato. No. Ma anche la stagione della Roma, insomma, partendo dalle premesse è una stagione deludente, nel senso che è una stagione dove al massimo la Roma arriverà terza, è comunque al di sotto di quelle che erano quantomeno le speranze, sì, se non le previsioni. E la Lazio è andata decisamente peggio delle previsioni, però sicuramente questo spiega solo parzialmente il vuoto. Ci sono altri motivi, lo sappiamo, ne parleremo. Intanto parleremo anche della Juventus. Ha parlato innanzitutto Allegri, che ha annunciato Dybala non ci sarà. Recupera probabilmente Chiellini e Marchisio, nel Napoli in forse Reina, insomma squadre anche quelle di testa con diversi problemi, soprattutto la Juve. Sentiamo cosa ha detto Allegri. Da oggi inizia un mini campionato di 8 partite, abbiamo 3 punti di vantaggio e quindi bisogna arrivare in fondo e mantenerli, se siamo bravi bisogna anche aumentarli. Domani, la partita di domani è una partita molto difficile e complicata, perché le partite con l'Empoli anche l'anno scorso fu una partita molto difficile, una squadra che gioca molto bene, hanno tecnica, non hanno niente da perdere perché il loro obiettivo l'hanno raggiunto e quindi bisogna essere molto bravi. Bisogna essere molto bravi, ma non ci credo che Allegri abbia paura, nonostante le assenze, abbia paura dell'Empoli. Il Napoli gioca con Reina in forse, come sappiamo, unica possibilità di assenza, non ci fosse lui ci sarebbe Gabriel. Gioca Udine, dove non vince dal 2007, però c'è un altro dato che prima Giorgio De Luca, che intanto saluto, il nostro autore, mi ha segnalato. Higuain 29 gol, tutta l'Udinese 26. Va bene che il Pipita è stato dall'altra parte del mondo, però abbi pazienza, Sì, è impressionante, veramente impressionante, non ci sono molti altri aggettivi, è clamoroso perché insomma i numeri di Higuain, ma non è l'unica squadra della quale ha segnato di più, insomma l'anomalia è più, se vuoi l'anomalia è più Higuain dell'Udinese, nel senso che certamente l'Udinese non è un attacco particolarmente prolifico, meno di un gol a partita, ma Higuain ha fatto cose che non si sono mai viste prima, bisogna tornare ai tempi di Toni quantomeno, addirittura prima di Angelillo per andare sopra i 30 gol, quindi sì. Clamoroso. Intanto per l'Udinese ha parlato Tero, che chiede una partita perfetta. Ci ha fatto sì lavorare tanto, adesso aspettiamo le altre, secondo me questo quando avrà tutta la squadra inizierà a parlare più preciso sulla partita che ci aspetta con Napoli, perché adesso è diventato sul maniera di avere fatto le ultime gare diventa una partita molto importante. Sarà una partita complicata, però secondo me la partita di Sassuolo ha dato buon segnale, giochiamo a casa e sì, c'è da fare la partita perfetta per sperare e fare un risultato. Questa era Terò. Intanto ha parlato anche a Radio Silvio Berlusconi, che immagina per il futuro, se non arrivano quattrini di nuovi soci, un Milan molto autoctono e molto giovane. Io ci sto lavorando e speriamo di riuscire a scegliere la via migliore. Con un nuovo allenatore, magari di Francesco Conte? No, non credo che questi nomi che lei mi dice possano essere quelli giusti per il futuro del Milan. E anche per quanto riguarda questo allenatore, vedremo come finirà la stagione e poi prenderemo le decisioni conseguenti. Conte è un ottimo allenatore, ha fatto benissimo alla Juventus e credo che abbia la stima di tutti coloro che si interessano di calcio. questo Berlusconi, a parte che Conte è del Chelsea, quindi adesso la nazionale poi è già del Chelsea, quindi mi sembra fuori logica e discussione, ma anche fuori budget per il Milan. C'è anche Balotelli che dice, sempre a proposito di Milan, 8 partite e voglio il riscatto da parte del club rossonero e l'europeo. A me sembrano un po' pochine, comunque, tra l'altro l'Udinese partirà dalla panchina. Cosa dici di Berlusconi, Pierluigi? Bah, insomma... Si va verso un brocchi allenatore e una squadra... Ma non lo so perché Berlusconi parla molto, sì. Legittimamente, insomma, durante la stagione, quindi... E spesso dice cose che stanno in conflitto una con l'altra, anche questo legittimamente, ci mancherebbe altro, però insomma... non mi sento di dire che questa presa di... Che cioè, secondo te non ha ancora deciso... Ma no, non ha deciso, secondo me questa frase qui non conta poco. Dire. No, tu che dici? Cioè, non, ma mi sembra, non mi sentirei di escludere dopo questa frase che Di Francesco possa allenare il Milan. Io vedo candidato Brocchi. Vedo candidato, sì. Brocchi. Cioè, Brocchi lo vedo da sempre e soprattutto da quella famosa cena. È molto stimato, sta facendo un lavoro importante a livello di settore giovanile, un lavoro, ecco, nei giorni scorsi parlavamo di Christ, della filosofia, sì. Il Milan da questo punto di vista ha una sua strada, ha una sua tradizione, ha una sua cultura, dalla difesa a 4, un'idea estetica del calcio che insomma nei 25 anni e più della gestione Berlusconi, 30 anni della gestione Berlusconi, ha portato a dei risultati clamorosi. Uh-huh. Bisogna chiaramente riannodare il filo, però questo filo deve essere riannodato partendo da quegli elementi programmatici, direi proprio filosofici. Sì. Quindi da questo punto di vista Brocchi mi sembra una scelta interessante. Detto questo, non ha ancora deciso su Mihajlovic. Uh-huh. Vediamo che succede da qui fino alla fine. La sensazione è che Mihajlovic sia sicuramente più no che sì, più fuori che dentro. Uh-huh. Però poi sul resto secondo me non ha ancora deciso. C'è un ascoltatore che scrive, a proposito, messaggio WhatsApp 349-238-6666, ma Allegri quando firma il rinnovo posso sperare in Paolo Sosa sulla panchina della Juventus? Io spererei nella prosecuzione del rapporto con Allegri. Anch'io. Che ha parlato, tra l'altro... Con tutto rispetto a Paolo Sosa, che è bravo, tutto, però... Massima, non, questo è un altro discorso annoso, no? C'è una parte della tifoseria juventina che Allegri, nonostante le vittorie, non continua a non amarlo. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Tutti convocati. Domani giochiamo in casa, sarà importante e determinante l'apporto dei tifosi da domani come da qui alla fine della stagione, soprattutto quando giocheremo in casa, perché il campionato ce lo giocheremo sicuramente in casa. Io fino alla fine del campionato, il campionato sarà un campionato aperto, va bene, e quindi in questo momento qui ci vuole molta calma. Se prima ci voleva calma, ora ci vuole molta calma, perché in questo momento non bisogna farci prendere all'ansia, ma bisogna pensare solo a giocare, a fare delle ottime prestazioni. Ci vuole grande tecnica in questo momento e bisogna essere molto bravi. I ragazzi sono pronti. Quindi da domani iniziamo questo mini campionato di 8 partite più la finale di Coppa Italia, che è la nona. E ora parole di circostanza, quelle di Massimiliano Allegri alla vigilia di una gara con l'Empoli, che io immagino abbastanza chiusa. Non prevedo, ma lo chiedo anche agli ascoltatori oltre che a Pardo, 800240024, grandi scossoni in questo weekend di campionato, Pierluigi. No, neanche io. Secondo me stavolta chi rischia un pochino di più è il Napoli, anche se credo che anche il Napoli sia favorito. Allargo il discorso a Massimo Caputi, che saluto, ringrazio, ora responsabile delle pagine sportive del Messaggero. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Buon pomeriggio. Come va? Come va? Grande Pierluigi, bene, te come va? Tutto bene? Bene, bene. Alla grande. Spieghi a quelli che vivono fuori dal grande raccordo anulare, che forse sarà a pagamento, leggo, vabbè, questo è un altro discorso, sì. Che succede domenica e soprattutto perché, insomma, domenica sarà un derby... Per farci capire le motivazioni. Beh, guarda, no? è un derby diciamo unico quello che ci prepariamo a vivere domenica prossima, perché è un derby atipico, senza tifosi, ce ne saranno probabilmente meno di 30.000, penso che sia il record storico di questa partita, di questa stracittadina. Strane sensazioni, i tifosi, quelli diciamo della curva, chiamiamoli così, chiamano a raccolta i tifosi a non andare allo stadio, ma anzi ad aderire a gruppi di visione e ascolto che vengono individuati dentro la città. Si conosce quello di parte giallorossa, non si sa ancora di preciso quale sarà quello biancoceleste. C'è stata una lettera addirittura aperta dei tifosi della Curva Nord che davano una serie di motivazioni per cui non vanno allo stadio, e non è solamente una questione di barriere. Sta di fatto che questo derby rischia di essere un derby che è annacquato per certi versi, anche se poi io credo che i 90 minuti riusciranno comunque a regalare, se non dico emozioni, diciamo dal punto di vista tecnico, ma comunque il risultato del derby non è mai un risultato che non lascia tracce, al contrario. In questo caso c'è una tifoseria però strana. Ecco, devo dirvi con estrema sincerità che mai si era vissuta una vigilia così, anche forse in virtù della sosta della nazionale. Si arriva a questo derby con poco pathos. Sì, pochissimo. La cosa straordinaria, io sono stato abituato tanti anni, adesso devo dire negli ultimi anni tutto molto più tranquillo, no alla VTV, no alla televisione, e paradossalmente adesso abbiamo dei tifosi che pur di non legittimamente, perché poi nessuno è obbligato ad andare allo stadio, finché le proteste sono pacifiche, sono anzi assolutamente da sottolineare, ma insomma pur di non piegarsi a delle regole o a delle situazioni che non gli piacciono, addirittura preferiscono vedersi la TV, è abbastanza clamoroso, e creano una sorta di socialità alternativa attorno a un televisore, che è abbastanza sorprendente. È la prima volta che succede. Questo fenomeno, quello che sta accadendo in questo derby, credo che sia un fenomeno che andrà analizzato con serietà e interesse. Perché a Roma è vero che le delusioni biancocelesti e giallorosse in qualche maniera hanno contraddistinto un distacco, ma c'è qualcosa che va oltre e che credo sia giusto approfondire. E sappiamo, Massimo, per quanto riguarda le proprietà delle due squadre, io ho chiesto anche agli ascoltatori di spiegarci le loro ragioni per cui non vanno allo stadio a vedere il derby. 800 24 00 24, ma ho anche i messaggi. C'è uno che scrive: se l'Olimpico non è un porto franco viene disertato, capisci a me. Orlando da Civitavecchia invece scrive: perché così come adesso andare allo stadio sembra che diamo fastidio, non come un cliente che porta i soldi. Sappiamo che sono discorsi legati alle due proprietà, no? Da una parte quello con Lotito, ed è annoso, dall'altra parte c'è il fronte giallorosso che è al di là dei muretti, delle barriere all'interno della curva, insomma, ma posso dire una cosa? Non è molto allineato sul fronte pallotta, dilla, certo. No, cioè, che in questo momento, per motivi evidentemente differenti, non c'è identificazione. Cioè, la proprietà americana così eterea, se vogliamo, no? Così lontana da una parte, Lotito che non è riconosciuto dalla stragrande maggioranza del pubblico biancoceleste come il presidente della Lazio, già questo allontana le tifoserie, il tifoso dalla società, rimane la bandiera, e purtroppo la bandiera che sventola, non la bandiera in campo, perché da una parte biancoceleste di bandiere non ce ne sono, anzi i giocatori migliori vogliono andar via, e la bandiera che ancora esiste e resiste, che è quella di Totti, che sarà forse al suo ultimo derby, e quindi capite che c'è una situazione veramente particolare. Sì, sarà forse al suo ultimo derby Francesco Totti, anche se oggi, ma credo sia una sorta di pesce d'aprile o comunque una buttad, si è diffusa la voce con cui Totti avrebbe detto, lo saprai bene anche tu Massimo, sono pronto a giocare un anno gratis, e Pallotta avrebbe risposto di no. Poi Pallotta si è affrettato a smentire tutto quanto. Questa esce da Rete Sport, Radio Romana, e si è affrettato a smentire, quindi la chiudiamo qui. Ma sì, nel senso che il pesce d'aprile può essere gioco gratis, no? Perché in fin dei conti non c'è mai stata nessuna dichiarazione e nessun segnale vero che possa lasciare intendere questo. Sicuramente non è una questione di soldi per quello che riguarda Francesco Totti. Quindi da lì, dal fatto di dire gioco anche gratis, è forse il vero pesce d'aprile di oggi, ma il fatto che Totti e la Roma siano lontani e che la smentita di Pallotta sono le cose certe che abbiamo in questo momento. Sì, Pier, dovesse essere l'ultimo derby di Totti, non esattamente la migliore delle situazioni. No. No, sicuramente no, fra l'altro è un derby che Totti almeno inizialmente vivrà in panchina, poi magari entrerà, insomma. Questo io credo che la vicenda Totti sia in qualche modo paradigmatica, molto perfetta per spiegare come mai, nonostante i risultati degli ultimi anni della Roma siano stati buoni, perché sono stati oggettivamente buoni, insomma la Roma e anche la Lazio ovviamente sono squadre abituate nella storia del calcio italiano non a vincere lo scudetto tutti gli anni, no? Quindi i secondi posti della Roma delle ultime stagioni, le partecipazioni in Champions League con alti e bassi, ma comunque le partecipazioni in Champions League dovrebbero corrispondere a un'età dell'oro o quasi, e ciò nonostante però invece si assiste a una certa freddezza o comunque a molta frizione, molta polemica, al di là degli aspetti legati a prefetto, questore, barriere, che sono gli aspetti che riguardano la curva, ma come dicevo ieri, questo non è soltanto il problema delle curve, perché se fosse solo un problema delle curve tu avresti 40.000 persone con le tribune che vanno a ruba e anzi per tutti quelli che dicono che le curve sono soltanto una turbativa che crea problemi e casino, insomma, quale migliore occasione che andare allo stadio adesso, no? Certo. Sarà molto meno traffico e molta più tranquillità. Certo. E invece ci rendiamo conto che non è così. Evidentemente i problemi non li fanno soltanto i ragazzi delle curve, che poi quando sbagliano, ci mancherebbe altro. Però non è soltanto la curva però mi insegnate che nella storia del derby di Roma, anche con squadre molto meno competitive in annate molto più storte di questa, il derby era una partita per cui c'era la caccia selvaggia al biglietto. Poi io credo che siano due situazioni un po' diverse, perché mentre sulla Roma, su una parte della tifoseria della Roma e la società c'è una sorta di stato di ogni tanto di agitazione, di polemica, la vicenda Totti, la vicenda dei fucking idiots, c'è stata una serie di prese di posizione che hanno creato quantomeno dibattito, però mi sembra che ci siano stati anche grandi attestati di fiducia in certi momenti, e la Lazio mi sembra che sul discorso legato allo titolo la situazione sia ben più complessa, al di là del fatto che poi c'è un'iniziativa che si chiama di padre in figlio, che è un'iniziativa, se non sbaglio Massimo ne sa più di me, che non ha, diciamo, il patrocinio diretto della società, che è un'iniziativa dei tifosi della Lazio che privatamente si vogliono riunire, come era già successo in passato, per riaffermare, rivendicare il loro amore, la loro storia, e con i biglietti che vanno a ruba. Quindi questo ti fa capire che il problema non è che improvvisamente non ci sono più laziali e romanisti, c'è un problema di rapporto con le società, che nel caso della Roma mi sembra comunque risolvibile, mi sembra sistemabile, nel caso della Lazio mi sembra un po' più complicato. Massimo? Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Pierluigi, e devo dire che in fin dei conti già con l'arrivo di Spalletti e le vittorie, già un po' il rapporto la freccina d'animo punta verso l'alto, tutto sommato, da quando è tornato Spalletti. Ma c'è stato un sussulto di positività, ma non abbastanza, anche perché questa vicenda Totti, e ripeto, il continuo, questo distacco che c'è con la proprietà, ma anche con i dirigenti italiani che sono qui, perché è innegabile, lo avrete letto, ne avrete parlato, cioè anche Sabatini, questo rapporto col direttore sportivo, Baldissoni, cioè non c'è un legame, e quindi per tornare al discorso di prima, nonostante la positività dei risultati e di un obiettivo che può essere importante, rimane questa freddezza, e per la Lazio di padre in figlio è una manifestazione fatta un anno fa e che verrà replicata, che l'anno scorso riempì totalmente lo stadio olimpico, e questo la dice lunga. Questo dice lunghissima. Massimo Caputi, grazie, alla prossima. A voi. Ciao, un abbraccio. Buon pomeriggio. Ciao. Noi ci fermiamo un attimo, Pier. Borsa. Assolutamente. Poi torniamo. Già ti pongo un quesito. Senti come parlo forbito. Ti pongo un quesito. Sceglimi uno sportivo ogni epoca italiano e uno sportivo ogni epoca del resto del mondo. Poi ne parliamo. Va bene? Sì. Borsa. Spot per noi, torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Dopo le 15 diamo un'occhiata anche al weekend dei motori che ci aspetta. Sono finite adesso le prime prove libere in Bahrain, primo Rosberg, secondo Hamilton, niente di nuovo sul fronte occidentale, terzo Raikkonen con la sua prima Ferrari, a 1,134 da Rosberg, molto più indietro invece Vettel è soltanto undicesimo. Poi ne parliamo con calma. Intanto Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare una domanda, un vostro parere sulla polemica del Napoli contro la notizia di mercato su Higuaín. Non mi sembra un po' ridicola? Come fa una società a fare una polemica del genere? Allora Juventus cosa dovrebbe fare? Pogba sono 4 anni che si è a casa ogni giorno con una società. Sì, Morata un giorno ricomprato, un giorno no. Vidal già 2 anni fa era già stato venduto. Cioè, Ne abbiamo già parlato a lungo ieri e siamo della stessa idea, non l'abbiamo cambiata, no Pierluigi? No, io sono d'accordo, questa cosa non l'ho capita, poi mi sono anche nel frattempo informato, ho risentito il pezzo di Bargigia, mi sembra si può, a parte che qui c'è anche un discorso se vuoi di deontologia, perché sappiamo che c'è scritto nel contratto e diciamo nella deontologia dei giornalisti, non c'è l'obbligo di dare le fonti. Protette da segreto. La fonte può essere lo stesso giocatore, può essere l'entourage del giocatore. Poi il pezzo era un pezzo assolutamente di scenario, non era un pezzo di certezze assolute. È abbastanza strano. A me dispiace anche perché, insomma, ti dico proprio che Napoli è stato, per esempio, a Tiki-Taka spessissimo ospite. Io adesso questi giorni non li ho sentiti. Spero che, insomma, da qui fino alla fine continueranno a parlare. Poi c'è anche un discorso contrattuale. Oggi c'è un articolo molto interessante di Aria sulla Gazzetta sul fatto che questo non riguarda ovviamente solo il Napoli, ma riguarda tutte le società. E riguarda sia Sky che Mediaset, quindi siamo da questo punto di vista tutti nella stessa barca, e anche la Rai, perché poi anche la Rai chiaramente ha i suoi diritti diversi, ma ha i diritti in chiaro, quindi insomma, non lo so, spero che si possa ricomporre, perché mi sembra che non sia successo niente di clamoroso, e perché come diceva giustamente l'ascoltatore, da questo punto di vista lo stesso vale per la Juve, lo stesso vale per Tuchel. Questi giorni si parla per esempio di Pjanic che potrebbe lasciare la Roma. Ma sì, ma anche oggi è scritto Pjanic potrebbe lasciare la Roma, la Lazio che praticamente è tutta sul mercato, insomma sono cose che si dicono e si scrivono, quindi ma che interessano anche la gente, no? Assolutamente, l'unica cosa, ripeto, che ci tengo assolutamente a sottolineare per l'ennesima volta, lo faccio tutti i giorni, è che questo vale anche per quella che sarà la mia esperienza Sky, non nessuno scrive sotto dettatura. Io su questo proprio ci tengo tantissimo, perché poi lo vedi, perché poi un giorno c'è una polemica con una squadra e un giorno c'è una polemica con l'altra, quindi se ci fosse sempre soltanto un vento da una parte abbiamo fatto molte volte questo discorso, è molto più difficile parlare con un giocatore che con un ministro, tanto per dire, o con un grande dirigente di industria. Secondo me c'è qualche problema comunque di comunicazione che riguarda il calcio, lo sappiamo bene. L'obiettivo di tutti quelli che fanno comunicazione, secondo me dovrebbe essere anche delle società, è umanizzare il gioco, renderlo appunto più umano possibile, perché questo significa anche celebrare i campioni del gioco stesso, no? E posso dire quindi, rispettare i tifosi, posso dirlo? Sì, rispettare i tifosi, ma rispettare, guarda, io il discorso che faccio ai miei amici è una parola grossa, ai miei conoscenti calciatori con i quali però con tanti ho un rapporto di simpatia e credo di stima reciproca, è che se loro si raccontano non succede niente, anzi fanno sicuramente la figura di quello che sono, cioè dei giovani certamente fortunati, certamente ricchi, nel 99,9% dei casi consapevoli della fortuna che hanno avuto, perché non è che i calciatori non si rendano conto di essere dei privilegiati, di essere anche un po' viziati, ma delle persone assolutamente normali, con i sogni, le ambizioni e quindi con le stesse qualità delle persone che vivono fuori e oltretutto le persone sulle quali noi tutti da fuori proiettiamo i nostri sogni, quindi da questo punto di vista veramente io credo che ci vorrebbe più comunicazione in positivo. Certamente la ricerca dello scoop è una cosa che non fa bene al gioco, ma anche essere un po' meno permalosi, per dirti, tante volte, questo secondo me la categoria un pochino dovrebbe riflettere su questo, il fatto che tante volte si cerchi di in una dichiarazione, no, di strizzarla al massimo per poterne tirar fuori un aspetto polemico. Tante volte non è così, tante volte i giocatori dicono delle cose e ti dicono quelle cose lì, o magari c'è una frase che esce male, cioè non c'è tutta questa dietrologia, delle volte in effetti può essere sbagliata e può portarli a essere impauriti poi quando si relazione, non vuole delegare. Certo, spero certo, che certo. risolva questa questione. Salutiamo insieme Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport. Che piacere sentirlo. Auguri. Dottor Genta, io la conosco e sono straordinariamente d'accordo con il dottor Pardo sulla analisi riguardo allo stato dei rapporti tra comunicazione. Parlate e con noi, direttore, parlate con noi, lanciamo questo appello al mondo del calcio e lo lanciamo con i 120 anni della Gazzetta dello Sport. Facciamo gli auguri. Auguri, auguri. 120 grazie, anni, non grazie. Di Andrea Monti, sia chiaro. Auguri. Domenica, dire, Gazzetta Verde. Sì. Una cosa che secondo me è oggettiva. Qualche giorno fa c'è stata a Bruxelles e la capacità, cioè la famosa frase di Mourinho, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, io lo dico sinceramente, è soprattutto quando succedono delle cose che vanno fuori dal resoconto sportivo che un giornale come la Gazzetta dimostra la sua profondità, perché per giorni ci sono stati reportage, ci sono state storie, c'è stata quella che quelli bravi chiamano contaminazione fra lo sport e quello che succede fuori, e questo secondo me è oggettivo, nonostante i 120 anni, ma insomma tutt'altro che anziani. Grazie, no. Devo giurare agli ascoltatori che non pago Pardo e nemmeno ci siamo parlati prima, però mi fa molto molto molto piacere. Senti, direttore, ho chiesto prima a Pardo, che adesso deve esprimere il suo verdetto, in questi giorni avete insomma avete lanciato questa idea, questa iniziativa. Io chiedo a Pardo e poi a te due campioni ogni epoca, un italiano e l'altro del resto del mondo. Ci hai pensato, certo. Pier? Io l'italiano penso che sia Gigi Riva, perché secondo me è giusto andare sul calcio, con tutto rispetto per gli altri sport, ce ne sono migliaia, ma lo sport è più popolare è il calcio, e secondo me Riva, da quello che ho capito, che è stato il calciatore forse più completo, l'attaccante più completo, e poi ha fatto questa scelta di vita, cioè ha unito all'aspetto dell'essere una bandiera, che hanno avuto anche Rivera, Mazzola, Totti, Zanetti, Maldini, Del Piero, ha unito un elemento di una scelta controcorrente, perché Cagliari era qualcosa di controcorrente, quindi ha avuto un ruolo anche fondamentale, quindi sì. Io ti direi Gigi Riva. E straniero? Io sempre? Sì. Sempre non sono buono. Preparato. Non sei preparato? Allora preparati, che chiedo ad Andrea Monti. Tu chi scegli, direttore? Adesso tu mi hai detto di ogni epoca, scusatemi, ma non ho seguito la prima parte della conversazione, quindi io posso andare a scegliere dove voglio. Vai a scegliere dove vuoi. Allora, devo scegliere un italiano. Un italiano è uno del resto del allora, mondo. Allora, Riva è una scelta non accettabile, è una scelta meravigliosa, perché è un uomo, una bandiera. È un uomo che ha sacrificato veramente, ci ha messo la gamba per il suo paese. Però io suggerisco, così, tanto per non essere sempre d'accordo con Pardo, la figura di Pietro Mennea. Un uomo che non avrebbe dovuto correre coi figli del vento e che invece tuttora detiene, pur scomparso dolorosamente, tuttora detiene il record europeo dei 200 metri piani. Quindi dico Mennea. Dici Mennea. Io vado sul contemporaneo e dico Valentino Rossi, sperando che di rivederlo con la maglietta di Maradona, che è l'altro che scelgo. Devo dirti che è molto divertente. Poi vi dico il sondaggio tra i lettori e i giornalisti della Gazzetta, che dove ci porta. Il secondo che scelgo è Muhammad Ali. Perché non perché voglia essere colto ad ogni costo, ma ragazzi, quello ha cambiato il mondo. Quello ha detto a una massa di reporter, probabilmente d'accordo con la segregazione razziale che allora c'era in America: io non vado in Vietnam perché nessun Viet Cong mi ha mai detto negro, voi sì. Cioè, devo dire che Ali ha avuto un impatto mostruoso sul suo paese e sulla storia del mondo. Sulla storia del mondo, certamente. E mi veniva in mente anche Owens. Ovviamente. Siamo anche chiaramente suggestionati dal film, però insomma io credo che poi alla fine, se noi andiamo a scegliere tutte queste storie qui, è perché ci rendiamo conto che lo sport non è mai solo sport, e io sono molto contento, e questo lo volevo chiedere al direttore, perché mi sembra che al di là dei giornali sportivi, negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, lo sport abbia preso un ruolo, un'incidenza, la quantità di volte in cui vediamo anche sui quotidiani politici il calcio e lo sport andare in prima pagina. Insomma, mi sembra che si sia ritagliato un ruolo importante, e siccome alla fine, con tutte le sue miserie, le sue vergogne, lo sport è comunque un mondo meritocratico, perché poi alla fine puoi discutere sull'arbitro, quello che vuoi, però alla fine se sei più veloce mediamente vinci, se sei più forte mediamente vinci rispetto ad altri aspetti della vita umana, secondo me è un buon segno. Io credo che sia stata anche questa la grande fortuna della Gazzetta e di tanti giornalisti che si occupano di sport. Lo sport è chiaro che ha sempre incrociato la storia non solo dello sport ma dell'Italia, del mondo, però è chiaro che più fortemente in questi anni è diventato un elemento insostituibile perlomeno per milioni e milioni di persone dell'identità culturale personale che tu ti costruisci, no? Lo sport è il momento per te, è il momento della passione, è il momento dell'emozione, non puoi prescindere perché ricordi condivisi. Io la sera della vittoria del 2006 a Berlino non l'ho vissuta come giornalista sportivo, l'ho vissuta come spettatore in uno stadio di Berlino con mio figlio attaccato al braccio, i francesi che si sommergevano di cori, e quella è una delle serate indimenticabili che abbiamo condiviso io e Alex, non è roba da poco. Beh, ma vedi, direttore, è così per tutti, no? Tutti noi ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo, l'ho chiesto anche io a Pardo di nuovo. Quella notte, come la notte dell'82, Mennea è quel pomeriggio, avevo 6 anni, mi ricordo, ero nello studio di casa di Roma, c'era forse mio zio, non lo so, la mia famiglia, mi ricordo come fosse ieri. Che sembrava che fosse ultimo ed è diventato primo in 30-40 metri con quella progressione pazzesca. Insomma, è questo, è la capacità, no? Non è un caso, secondo me, che il direttore faccia un riferimento ad Alex, cioè al figlio, perché è una delle cose, secondo me, che lega veramente le generazioni, come pochissime altre cose, credo, nel mondo. Vi posso chiedere un attimo di pazienza per il traffico, poi rubiamo altri 2 minuti ad Andrea Monti? Certo. Traffico. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta. Tutti convocati. Perdonatemi, Pierluigi Pardo, Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport. Ogni tanto mi tocca fare il notaio e quindi interrompervi in una discussione che era molto interessante, che sta appassionando tantissimo anche gli ascoltatori. Poi vi dico qualche exit poll, c'è chi dice Michael Jordan, io non posso che essere d'accordo. C'è chi dice che non abbiamo citato un ciclista da coppia a chi volete voi. Chissà quanti non ne abbiamo citati. È solo una scelta, ma è O Merckx. Ragazzi, perché non bisogna sempre solo essere italiani. Io ho votato Coppi in queste sfide impossibili della Gazzetta, il cui esito sarà noto il 3 di aprile, scusate lo spottino pubblicitario, domenica usciamo in verde con 1 milione di copie e riveleremo chi è la leggenda per i lettori e la leggenda per i nostri giornalisti. Io ho votato Coppi, però non dimentichiamoci che Merckx è stato un dominatore della sua disciplina come forse nessun altro. Non abbiamo citato delle donne, questo ha ragione. Allora vi dico che Valentino Rossi se la deve battere con Federica Pellegrini. Caspita, perché la Vezzali rimane l'atleta italiana più titolata alle Olimpiadi. Questo è chiaro. Stavi dicendo prima, Pierluigi, prima che ti interrompessi col traffico. Non mi ricordo, perché io non sono anziano come la Gazzetta, anziano soltanto di anni, però sono decisamente più bollito, quindi pur avendo un terzo dell'età, ma insomma è chiaro che lo sport ha una forza di evocazione incredibile. Poi adesso mi è venuto in mente la Navratilova, per esempio, credo che a proposito di donne la si debba considerare, no? Però insomma questa capacità di racconto dello sport mi sembra molto, molto importante, indiscutibile, mi sembra una bella tendenza, cioè mi sembra che negli ultimi anni la letteratura sportiva, per esempio in Inghilterra, sappiamo benissimo, negli anni 90 arriva Orby e cambia tutto, nel senso che sdogana il calcio e la cultura pop, rendendo la cultura con la C maiuscola, e lo stesso discorso mi sembra che stia avvenendo negli ultimi anni in varie parti del mondo, quindi insomma questo significa che questa cosa che ci piace così tanto piace a tanti ed è una cosa vera, grande, bella, colta, alta, e quindi chi la racconta tutti i giorni ha un grande privilegio ma una grande responsabilità, come la Gazzetta, come la trasmissione testimonia. direttore. Alto basso. Mi racconti come si sono divisi invece i tuoi uomini della redazione su questo argomento? Non ti voglio chiedere in anticipo l'esito di quello che scriverete. È stato divertente perché abbiamo già dovuto sforzarci di individuare 16 campioni per 16 sport. Poi c'era l'incrocio del tabellone di Wimbledon, andava a teste di serie, e quindi Maradona ha subito incontrato Michael Jordan e per una strettissima incollatura ce l'ha fatta. Poi ha incontrato Coppi che veniva dall'altra parte, che si era scontrato con Valentino Rossi e aveva vinto. Insomma, alla fine in finale va Diego Armando nella parte alta, sotto tomba, incontra Ali al primo turno e esce, poi Senna incontra Ali e esce, poi Jesse Owens incontra Ali e esce, e alla fine lasciandosi dietro Federer, Redgrave, eccetera, alla fine è Maradona contro Muhammad Ali. Facciamo un mestiere meraviglioso, ci piace divertirci. E tutto penso questo che... è una roba assolutamente assurda, vi rendete conto, no? Cioè una cosa non bizzarra, forse anche sciocca, ma in queste cose bizzarre, che sono delle intermittenze del cuore, che è una cosa propria dello sport. Lo sport ti consente di sognare e di fare dei discorsi completamente assurdi. Certo. E questa è l'essenza. E no? Anche profondamente inutili, perché la cosa più bella è proprio questa, l'assoluta inutilità. Però possiamo starci un'ora adesso a discutere fra Maradona e Michael Jordan. E tutti questi campioni hanno... nei nomi che hai citato c'è tutto lo scibile umano, no? Nel senso che ci sono quelli irregolari alla Maradona, quelli invece assolutamente focalizzati, che sembrano quasi dei robot, ce ne sono sicuramente di sportivi che hanno fatto della dedizione, però io credo che talento e impegno siano la caratteristica di tutti questi qui, indipendentemente dalla disciplina, e quindi anche in questo poi alla fine non sono altro che l'esaltazione del genere umano, poi è questione di gusti, è questione di emozioni, no? E le emozioni sono del tutto personali, quindi c'è chi ricorda certe gare di Senna, c'è chi ricorda certi canestri, certi momenti di Michael Jordan, c'è chi ricorda i gol di Maradona. È una questione essenzialmente individuale, secondo me. Carlo, giustissimo, e ti aggiungo velocissimamente anche extrasportiva. Bravo, perché esatto. Perché scelgo Coppi e non Merckx? Prima di tutto per due cose: Coppi ha avuto la carriera completamente interrotta dalla guerra, arriva in Italia come uno straccio da un campo di prigionia e Gino Palumbo gli trova una bicicletta per risalire al suo paese. Coppi è la dama bianca, io ho votato Coppi versus Merckx per la dama bianca, perché improvvisamente in quell'Italia bacchettona, orribile, di cui talvolta vediamo ancora degli echi, e caspita, Coppi rompe tutto. Sai cosa? Che tornando al discorso originario che stavamo facendo io e Pardo, io trovo che lo sport sia in crisi nel racconto delle sue storie negli ultimi anni, sia in crisi di personaggi, non tanto di grandi campioni, quanto di storie che non riusciamo più a trovare. Io non lo so. È sempre una sensazione mia. O di storie che si negano. La quotidianità, secondo me, direttore. È chiaro che oggi ci sono molti più filtri, ci sono molti più addetti stampa, ci sono molti più interessi economici. Questo è un grande punto, ragazzi. Questo è un grande punto ed è anche, se vuoi, un grande problema, no? Per i romantici di questo mondo. Perché sicuramente, insomma, qualsiasi frase, pensa con le società quotate in borsa, no? Può arrivare la Consob che su una frase... E te lo dimostra De Laurentiis, come discutevate prima, ora non è la guerra atomica. Ma no, volevo fare una considerazione a questo proposito, perché la colpa è dello sport e la colpa è anche un po' nostra, ragazzi, e per quello trovavo assolutamente centrato il discorso di Pierluigi. Allora, lo sport si nega alla comunicazione e all'epicizzazione, sono diventati irraggiungibili questi. Sì. Mi è stato più facile avere un messaggio di saluto del presidente Mattarella che avere un messaggio di saluto di un buon mediano di Serie A. Sì, ho capito. Certo, certo. Quando è che finisce l'epica del grande automobilismo? Non finisce con la morte di Senna, finisce con questa macchina diabolica di interviste, di robe, eccetera, eccetera, che certo hanno una loro funzione televisiva e per carità, ma diventa inaccessibile. Il pilota che una volta toccavi e che ti faceva sentire la sua paura, la sua carica, eccetera, oggi è un automa, per cui non è che Senna e Hamilton siano separati solo dalla morte e dall'epica che comporta, sono separati da un mondo intero. noi in compenso prendiamo nello sfascio quotidiano delle notizie, del dover far audience, del dover far copie, eccetera, eccetera, una solenne cretinaggine delle volte o una scivolata. Guardate il discorso di Berlusconi ieri sera. Io ho passato mezz'ora attaccato alle agenzie per capire che cosa stava dicendo, se aveva aperto Conte, non aveva... Niente, sta facendo un discorso elettorale con una sua dignità, ma non aveva detto nulla. Direttore, ti facciamo di nuovo gli auguri e ti ringraziamo. E ti mandiamo io ringrazio voi ed è un piacere, quindi mi risentirete. Siete in casa tua. Quando vuoi. Il 3 di aprile, per cortesia, date una mano a questa Gazzetta Verde. Un abbraccio. Abbraccio, Andrea Motti. Ciao. Grazie davvero. Caro Genta, cosa qui. Cioè, è chiaro che ci sono i diritti televisivi e le esclusive e il mondo del business è fondamentale nello sport, è inutile. Noi facciamo interi puntate con Bellinazzo ed è fondamentale e indietro non si torna, però i grandi hanno capito, ad esempio l'NBA o ad esempio la stessa Champions League, la stessa UEFA, che la comunicazione a margine di un evento è importante, cioè che se poi questi giocatori diventano irraggiungibili, se diventano dei marziani, non interessano più, in qualche modo, in maniera completamente diversa, si lega al discorso che abbiamo fatto sul derby prima, cioè al di là delle difficoltà di Lazio e Roma in campo c'è un problema di rapporto e di fiducia e di amore in questo momento in difficoltà fra un pezzo di tifoseria e le società, e devi trovare un punto d'equilibrio, altrimenti avrai stati sempre più vuoti. Luigi, grazie, ci sentiamo domenica, direi. Vado a soffiarmi il naso, arrivederci. Bocca al lupo, non c'è solo Reina, a fanno per Udine, ci sono anch'io che... Sei anche tu in dubbio. Devo smaltire il raffreddore. Sei in dubbio anche tu. No, ci vado. Ciao, ci sentiamo domenica. Ciao Pierluigi Pardo. Allora, noi torniamo con gli ascoltatori, ne avevamo due in linea, spero di risentirli subito dopo il GR, 800240024, e apriremo il capitolo motori, perché ho detto delle... prime prove in Bahrain per la Formula 1 e poi parleremo anche di moto mondiale con la questione Stoner, la questione Lorenzo, la questione Espeleta, la questione Valentino Rossi che vuole tornare a indossare la maglia di Maradona in Argentina, insomma a dopo. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. Convocati. Allora, discussione molto interessante, ho trovato quella con Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, un tema che divide, poi ho mille segnalazioni sugli sportivi ogni epoca, da Valentina Vezzali a Jesse Owens, c'è chi scrive Alex Zanardi e ne ha pieno titolo, se si considera solo il calcio uscire Maradona, insomma discorso per cui potremmo stare qui ore, giorni e giorni. Intanto però vi ricordo, visto che tra poco apriamo la pagina dei motori, Free Practice 1 in Bahrain, Formula 1, prove libere, prima tornata in Bahrain, primo Rosberg, secondo Hamilton, terzo Raikkonen, quarto Ricciardo, sull'undicesimo Vettel. Per quanto riguarda le moto, invece siamo all'inizio della prima tornata, anche qui di prove libere in Argentina. Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Io volevo fare una considerazione insieme a lei. Dica. Volevo farle immaginare solo, volevo parlare del derby. Provo a immaginare i tifosi del Boca e i tifosi del River che non vanno a vedersi il derby. No, io non ci riesco, ma non riesco neanche a immaginare quelli della Roma e della Lazio che stanno fuori dal derby. Io spero che non rendano, non riescano a farcela, e spero che l'amore per la loro squadra e soprattutto la storia della loro squadra li porti dentro quello Vittorio, stadio. La realtà supera l'immaginazione. Quindi sarà lo stadio Sanremo, ma però io ho molto rispetto per quelle due tifoserie, perché sono storia di questo calcio e secondo me è inutile arrivare a tanto. Spero che ci ripensino e le invito tanto a entrare in quello stadio e a rendere da spettacolo come hanno sempre fatto. Guardi, io prima avevo un messaggio, un WhatsApp molto bello, che visto che siamo in totalmente trasversali, soprattutto oggi, che scriveva: in America fanno la fila i tifosi di altre squadre per andare a vedere per l'ultima volta giocare Kobe Bryant, che è a pochi giorni da un ritiro annunciato un anno fa, come sempre accade in America. In Italia invece non vanno a salutare Totti in quello che potrebbe essere il suo ultimo derby. Franco, buongiorno. Buongiorno, signor Genta. Due domande volevo farle. Ecco, la prima domanda è: che motivazioni ha il fatto che alla quart'ultima giornata di campionato, quando le gare si dovrebbero giocare in contemporanea, Fiorentina e Juve si giochi la domenica e Roma-Napoli al lunedì 25 mm-hmm. aprile? C'è qualche motivazione che magari non conosco? Perché i calendari sono fatti così. Ad esempio i calendari li fa la Lega, ormai siamo abituati allo spezzatino, siamo abituati anche alla mancanza di contemporaneità nell'ultima giornata di campionato, cosa che nelle ultime tre giornate di campionato, quattro giornate di campionato prima era sacra. Quindi i calendari li fa la Lega, li fanno le televisioni. Molto delicata. Eh sì, lo so. In compenso, alla penultima giornata è stato deciso che Juventus e Napoli giocheranno in contemporanea alle 20:45. Dica. Seconda domanda: ma che Buffon in due partite all'Allianz Arena abbia subito 8 reti non dimostra che il livello del nostro calcio è leggermente inferiore a un determinato livello di calcio europeo? Domanda difficile questa. Insomma, Buffon ha preso i gol che ha preso all'Allianz Arena, la Juventus ha fatto una gran figura all'Allianz Arena ed è andata vicinissima al passaggio del turno, pessima figura ha fatto invece la nazionale di calcio, lasciandoci un sacco di preoccupazioni. Continuo a pensare di fondo che sia molto difficile parametrare il calcio di club con quello delle nazionali mediamente. Oggi la verità è che le nazionali sono molto più deboli rispetto alle grandi squadre di club. Allora vi faccio sentire subito Valentino Rossi, così entriamo in tema alla vigilia di questo weekend in Argentina molto importante. Quest'anno cambia tutto, no? Soprattutto le gomme, e questa è una pista molto diversa dal Qatar, dove c'è un altro asfalto e quindi bisognerà ricominciare da capo, bisognerà cercare di fare un buon lavoro durante le prove, perché comunque Qatar è stata una bella gara, sono stato piuttosto veloce ma alla fine ho finito quarto, nel senso che quest'anno ci sono tanti che possono lottare per salire sul podio, e quindi se alla fine ce la vuoi fare ci vuole quel pelino in più, no? Sì, l'anno scorso è stata una gara bellissima, poi no, salire sul primo gradino del podio con la maglietta di Maradona qui davanti a tutti i tifosi argentini è stato un grande momento, soprattutto perché veniva dopo una bellissima vittoria. Questo era Valentino Rossi. Come ho detto, io sogno di rivederlo con la maglietta di Maradona sul gradino più alto del podio in Argentina. The Voice per le moto, almeno per noi. Roberto Ungaro, buongiorno. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Come la vedi questa tre giorni appena iniziata? È un po' più dura dell'anno scorso, perché qui pista nuova, le Michelin non le hanno mai provate, ricordiamo che invece in Qatar le provarono, quindi insomma i giochi erano già mezzi scoperti. Pista nuova, sono iniziati da pochi minuti, sono iniziati i primi giri, hanno un approccio molto morbido i piloti, un po' timorosi, aspettano che si gommi la pista. Comunque fa notizia che davanti a tutti Barberà, Redwing e poi Dovizioso ed Hernandez, l'unico pilota sudamericano, 4 Ducati nei primi 4 posti, quindi si conferma la moto da battere prestazionalmente. Roberto, parlando, sai bene che la settimana dei motori, che è stata molto lunga, delle moto, che è stata molto lunga, faccia il giro intorno alla Ducati per mille ragioni, no? Perché? Sì. Per Stoner e per Lorenzo, che ha di nuovo dichiarato nel contratto: non parlo, non mi rompete le scatole. Sembra che in questo momento tutto il mondo delle due ruote giri intorno alla rossa. Allora, si dice che c'è un contratto pronto, firmato da parte di Ducati, aiutata da Audi, dal gruppo, per 12 milioni per Lorenzo. Lorenzo ha un'offerta, un rilancio di Yamaha a 10, quindi ballano 2 milioni per andare di là, nella rossa. Uh-huh. Lasciare la moto campione del mondo è molto difficile, è la moto più diciamo in forma, però Ducati ha dimostrato di essere veramente un ottimo potenziale. Gigi Dall'Igna ha tirato fuori dal cilindro una gran moto e punzecchiato da Valentino, che gli ha detto: tanto per andare di là bisogna avere le palle, uh-huh. lui non ce le avrà, vedrai che rimarrà qua. Questa cosa qua può motivarlo un po' di più. E poi pensa se dovesse vincere con la Ducati, sarebbe l'unico ad esserci riuscito, a parte Stoner, ma soprattutto riuscirebbe laddove Valentino non c'è riuscito. Certo. Valentino a momenti abbandona la carriera, quando ha avuto quei 2 anni bui di depressione perché la moto e non gli andava a genio. Ricordiamo che era un'altra moto, quella di adesso non è paragonabile. Stoner, sappiamo tutti come va, non ha ancora provato bene la versione 2016, con la moto vecchia è stato più veloce degli altri. Lui odia correre, odia tutto quello che c'è intorno alla pista. Certo che quando si tratta di girare in moto lui ci sarebbe, quindi le ultime voci sono che lui non voglia correre, ha detto che non vuole correre, ma secondo me come wild card teniamoci pronti, perché una garettina a due forse le farà questa stagione, ma le farà a sorpresa. Capisci? Non ha preso la moto di Petrucci, che poteva farlo, perché Petrucci sapete tutti che è infortunato, c'era la sua moto libera, ma tutta la moto creare vecchia. Un po' di suspense, esatto. No, Roberto? Quindi bisogna capire se Lorenzo arriverà in Ducati, chi se ne andrà via. Sicura, più facile Dovizioso, più facile che rimanga, dice. Che rimanga un, sì, è più facile, si dice, perché Dovizioso è già lì da tanto tempo, si doveva dimostrare che poteva farlo prima. Iannone è più giovane, c'è un po' più speranza, diciamo, attorno al suo nome. E tanti punti interrogativi, non è ancora nulla di certo, non c'è nulla. Lorenzo ha dichiarato: arriviamo in Europa, facciamo la gara in Spagna e poi io deciderò. Il contratto è lì pronto, sappiamo che è di 10, ballano 2 milioni, Valentino ne prende 6, questi sono i valori in campo, ma rispecchiano un po' quelli che sono i potenziali. Valentino qui prendere il podio la vedo dura. La vedi dura? Sì, gradino più alto difficilissimo. Inserirsi dentro potrebbe farla, ma d'astuzia, perché abbiamo visto che in apertura di stagione è sempre stato fuori dai giochi. 14 secondi di distacco, purtroppo Valentino lo sa che è il meno veloce di quei dei quattro e deve tirare fuori il jolly. Sì. Fino adesso l'ha tirato fuori un po' a parole e non con i fatti. Ha iniziato una sorta di mind game, no? di battaglia psicologica, ne abbiamo già parlato, fatta di continue punzecchiature, tra le quali quella che hai citato prima. Senti, altro argomento della settimana, sempre a proposito di grano, Espeleta, l'Ecclestone del moto mondiale in una bufera senza precedenti. Sì, denunciato da colui che ha gestito per anni la movimentazione, la logistica del moto mondiale. Sapete che si muove, è un grande Circo Barnum che va da una parte all'altra del mondo e si muove con dei container, le spedizioni oltreoceano, c'è un certo tipo di spedizione, mentre invece in Europa si viaggia su terra ed ecco che allestiscono questi ospitali che sembrano dei castelli. Bene, questa persona che non ha più avuto conferma del contratto pare che abbia voluto far rivalere certe cose che ci sono dietro, dicendo che c'è una società che ha sede in Olanda dove Carmelo ha voluto fare tutto quanto lì per ovviamente raggirare il discorso delle tasse, il fisco. Insomma, il comunicato ufficiale di Dorna è che non sanno nulla, non hanno ricevuto nulla di ufficiale e quindi stiamo ad aspettare. Certo che non fa del bene attorno al nostro mondo, perché se la moto si differenziava dalla Formula 1 per qualcosa, era anche perché è un mondo un po' più genuino. Possiamo invece allargare il discorso a Blatter o a chi vuoi tu, a Platini? No, lì la se cosa vuoi, è insalvabile. Possiamo allargarlo fino ai confini che tu vuoi, questo discorso. Ma di là è una battaglia persa proprio, cioè purtroppo è un po' come la politica di oggi da noi, non c'è colore che tenga. La cosa grave è che non c'è più fiducia da nessuna parte, purtroppo. Vabbè, ritorniamo da noi. Notizia triste per gli appassionati, ahimè non è confermato il Gran Premio di Monza per la Superbike, doveva esserci, doveva rientrare, e invece Dorna ha comunicato che non ci sarà la gara della Superbike, il mondiale, quest'anno a Monza. Peccato, perché per gli appassionati era un appuntamento imperdibile. Certo, vabbè, certo. Ce ne faremo una ragione. È un peccato. Aspetto ancora una risposta sul rientro in MotoGP di Kawasaki, scrive un ascoltatore. Sta aspettando da un po'. È troppo concentrata sulla Superbike. Per adesso nessuna notizia riguardo questa voce. Semmai Suzuki si metterà per sostituire Vignales, perché Vignales se ne potrebbe andare al posto, per esempio, di Lorenzo, se va in Ducati. Certo. E quindi chi sarà? La pedina che muove tutto è quella lì. Roberto, ci sentiamo lunedì. Ci vediamo anche qui. Puntuali come sempre. Puntuali come sempre. Dopodomani alle 21, Gran Premio da non perdere. Full immersion di motori. Grazie, Roberto Ungaro. Ciao, Carlo. Ciao, un abbraccio. E allora io prendo un traghetto dal moto mondiale alla Formula 1, salutando Alberto Sabatini, direttore di Autosprint. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Invece ho detto prima, quando si sono chiuse per la cronaca, oggi abbiamo già visto le prime prove, i primi giri pista in Bahrain. niente di nuovo sul fronte occidentale. Ancora peggio, perché Rosberg, abbiamo visto Hamilton, una Mercedes devastante che ha rifilato 2 secondi a tutti gli altri. Sì, ma mi spiega allora da dove arriva tutta questa fiducia della Ferrari, perché leggo ancora oggi questa lunga intervista ad Arriva Bene sul Corriere della Sera e siamo da titolo e lotteremo per il titolo e non ci, il podio non ci basta più e non ci basta più neanche il secondo posto, poi vai a leggere i tempi e i risultati fin dalle prime prove e ti viene un po' di sconforto. Beh, viene dal fatto che comunque questi tempi sono un po' particolari, cioè emersi in condizioni anomale che non si ripeteranno per il weekend, nel senso che oggi, stamattina, anzi oggi pomeriggio, quando hanno provato, in Bahrain nel deserto faceva freddo e tutti i team sono stati colti di soprassalto quando sono andati in Bahrain, perché si sono portati abbigliamenti leggeri, magliette, e hanno trovato pioggia, vento e freddo nel deserto. E quindi già facevano fatica, insomma, a coprirsi. Oggi hanno girato con un cielo coperto, temperatura abbastanza bassa. La pista del Bahrain è particolare perché l'asfalto è ruvido come una grattugia, però quando c'è vento che porta si copre la sabbia e quindi diventa scivoloso e quindi non si riesce a capire come funziona la gomma nel primo test. Poi man mano che le macchine girano, dopo un giorno, due giorni, si pulisce e le condizioni di aderenza cambiano. In queste condizioni così precarie la Mercedes evidentemente ha dei margini stratosferici e loro però hanno compiuto un po' un azzardo, perché la Mercedes per questa gara ha scelto soltanto un treno di gomme medie, quelle gomme medie che gli hanno dato la vittoria in Australia. E chiaramente l'hanno scelta perché la scelta viene fatta 3 mesi prima, e 3 mesi prima non potevano sapere com'era il tempo, la temperatura. Sì. E si sono basati forse sullo standard, sul caldo, sul deserto. Però in un modo o nell'altro, su in Bahrain come da altre parti, con le gomme scelte da tempo, quelle scelte all'ultimo momento, sono sempre davanti. Vettel ha preso 2 secondi, però ha girato con le gomme medie, Mercedes ha girato con le gomme soft. Si sono ribaltate le cose rispetto al solito, cioè la Mercedes invece di girare con le gomme a lunga durata, quelle che fanno andare un po' più piano ma ti permettono di fare tanti giri per fare l'aspetto e la messa a punto, ha fatto pochi giri veloci con le gomme soft. La Ferrari ha fatto il contrario. Quindi trovi fondato a monte, trovi fondato l'ottimismo che rimane in Ferrari? Che la Ferrari sia da titolo è ancora da dimostrare. Che però la Ferrari sarà più vicina a Mercedes di quanto si è visto oggi. Quello sì. Quello sicuramente, anche perché, ripeto, in Australia, in condizioni ancora più anomale, hanno perso una gara che stavano guidando. Hanno perso, anche per un errore di strategia, per una serie di circostanze. Quindi. Certo. Voglio farvi sentire la voce di Alonso, che in Bahrain non correrà. Sì, ho venuto qui perché io alla fine il dolore ero pronto a resisterlo. Sappiamo che è molto doloroso avere una costa rotta, ma è un problema solo tuo quando sei in macchina e penso con l'adrenalina e tutto potresti risolverlo, ma certo ci sono minimi rischi di qualcosa più grave che tutti vogliamo evitare, e quello che stiamo facendo. Abbiamo visto un pneumotorace e una costola fratturata. E quindi abbiamo ripetuto la prova, il pneumotorace adesso è ok, ma la costola sembra che ancora gli serve un po' più di giorni, e i medici penso con un po' di logica hanno detto che con quella costola così forse c'è un minimo rischio di avere qualche problema. Non è come rompere un braccio o una gamba che alla fine è solo dolore, questo ci sono qualche cosa importante intorno al petto, quindi è la decisione sicuramente più logica, ma io volevo cercare fino all'ultimo minuto di cercare di andare in macchina. Certo che Alberto Sabatini, la McLaren che è stata per decenni dominatrice, regina incontrastata del mondo della Formula 1, è messa male. Sta diventando un team allo sbando, per una ragione o per l'altra, però sono anni. E mi dispiace per Alonso, posso dire la verità, perché è, secondo me è un campionissimo. Alonso è ancora uno dei 3 più forti piloti al mondo di Formula 1, ha fatto una scelta azzardata andando alla McLaren, ma d'altronde non aveva alternativa perché comunque era stato lasciato libero dalla Ferrari. In ogni caso il rischio di Alonso, che lui non ha spiegato completamente, è che la costola incrinata in caso di incidente o per una botta violenta potrebbe forare il polmone, certo. Questo è il motivo per cui i medici l'hanno lasciata a riposo. La novità è che al posto di Alonso c'è un pilota che tutti dicono, gli addetti ai lavori pensano possa essere un grande campione domani, Toffel van Dorn, belga, che debutta in Formula 1 sulla macchina di Alonso, e Alonso sarà incuriosito a vedere che performance può avere lui, il quale è arrivato precipitosamente dal Giappone dove era a fare un'altra gara per chiamato d'urgenza, convocato d'urgenza. Grazie, grazie direttore. Prego, grazie Alberto Sabatini. Allora, torno agli ascoltatori per chiudere il programma e la settimana. 800240024, numero verde. Gennaro, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Grazie. Senta, io stavo, ho chiamato per i due personaggi che lei ha buttato in sondaggio. E chi sono, secondo io, lei? Io, per me, l'italiano è Pietro Mennea. Sì, quindi è, diretto, è d'accordo col direttore Monti? No, veramente, sì, l'ho sentito a sprazzi, però... comunque, se mi fa piacere che anche Monte pensi come me, sì. Monte è come calciatore straniero Maradona, logicamente. Sì, Maradona non fa, fa il vuoto intorno a sé, anche se io voglio andare fuori dal calcio, i miei voti, lo ripeto, poi magari è un discorso che riprenderemo, un gioco molto divertente e interessante. I miei sono, rimango sulle moto per Valentino Rossi per quanto riguarda l'Italia, e per quanto riguarda il resto del mondo, beh, Michael Jordan, ragazzi, perdonatemi. Oppure no, perché insomma, io ho certi momenti di sport come quelli che ha disegnato Jordan, non li ho mai visti. Andrea, buongiorno. Buongiorno Cinta, buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei. Io volevo tornare un attimo su quello che aveva detto anche prima Pardo, che sul fatto che non bisogna perdere il contatto, diciamo, tra pubblico e calcio, perché tra pubblico e personaggi sportivi possiamo allargare, sì, possiamo pure allargare il discorso un attimo, perché secondo me, se no si rischia, io capisco bene le necessità economiche e tutto quanto, però della differenziazione tra personaggio, tutto quello che si vuole, però se no si rischia veramente di perdere completamente quella che è la passione del pubblico, e quando è persa la passione salta anche il discorso economico, certo. Certo. Io voglio solo fare un piccolo esempio e cerco di farlo veloce. Io ho avuto la possibilità qualche tempo fa, io sono tifoso del Toro, di conoscere durante un pranzo Paolo Pulici, sì. Non l'avevo mai conosciuto. Sì. E devo dire una cosa, l'ho conosciuto e ho detto, mamma mia, che differenza rispetto ai personaggi di giorno e oggi. Beh, ma vede, quelli di oggi in fondo non li conosciamo, in fondo si nascondono o vengono nascosti dalle società, poi... Possiamo parlare di altri tempi, di altri uomini, possiamo fare discorsi più o meno elevati. La verità è che oggi sono molto distanti da noi, no Andrea? Quindi poi possiamo trovare, magari tra vent'anni saremo qui a fare gli stessi discorsi su giocatori attuali. Quello che dico io è che, ma è la realtà, è che vengono tenuti anche colpevolmente, secondo me, dalle nuove regole del gioco troppo distanti dagli appassionati, dai tifosi, da chi vorrebbe soltanto conoscerli meglio. E ripeto quanto detto prima, secondo me è anche una questione di rispetto nei confronti dei tifosi, degli appassionati, eccetera eccetera. Quindi non trova? Sono pienamente d'accordo. E forse questo permetterebbe anche di avere, che la passione aumentasse. Perché per esempio il silenzio stampa a chi giova, a chi danneggia? Danneggiano i giornalisti? No, perché a quel punto possiamo anche fare a meno di certe dichiarazioni banali e possiamo anche sbizzarrirci nelle nostre congetture o anche qualche volta nelle nostre speculazioni. Secondo me danneggia chi vorrebbe sentire, avrebbe piacere di sentire le voci e le opinioni dei propri giocatori, dei propri beniamini. Buongiorno Pantaleone. Sì, buon pomeriggio dottor. direttore. Buongiorno. Complimenti per la vostra competenza. Vi grazie. Seguo da tanti anni, da un'aperta campagna da Borgo, provincia d'Avellino. Meraviglioso. A proposito della nazionale, una cosa che non avete ancora detto. A proposito di Buffon, è stato d'accordo il portiere che ci ha fatto diventare campione del mondo, ma Buffon in 20 giorni, questo non l'avete ancora segnalato, ha preso 15 gol non lo so, tra Bayern, nazionale, segnalato. Coppa Italia, Inter, Spagna e abbiamo segnalato. Sì, sì, è un guardi, posso dire che secondo me è soltanto un dato curioso, perché sul valore assoluto di Buffon nessuno discute, tra l'altro appena battuto un record storico, quello del maggior numero di minuti senza subire gol. Poi calcio è bello anche perché capitano di queste disfunzioni, di questi infortuni, penso sia soltanto da rubricare come circostanza. Allora ci sentiamo domenica con Giovanni Capuano dalle 5 alle 7 e poi appuntamento ovviamente lunedì alle 2. Ciao a tutti, grazie Giorgio De Luca per il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Federico Bindi in redazione. Io vi saluto e vi ringrazio tantissimo.